sì, ovviamente. Ecco, dicendo in primis, che veramente è, come si dice, saluto, dicevo, gli incriti, uditrici e gli incriti uditori, dicendo veramente che anche a nome dell'ASA, qui rappresentata anche dal dirigente Franco Latino, che è in sala, che appunto è un gradito dovere, ma soprattutto è un piacere presentare un volume estremamente pregnante del collega, amico e da anni, diciamo, anche sodale, che è appunto il professor Silvano De Marchi, con questo volume Momenti. Ecco, io inviterei intanto a leggere la prefazione, per meglio dire il saggio introduttivo di Antonio Crecchia, che è molto ben strutturato e molto efficace, cercando però anche di individuare ecco, qualche cosa che Crecchia non dice, magari nella stessa maniera in cui cerco di dirlo io. Ecco, prima di tutto io direi è vero assolutamente quanto afferma appunto il professor Crecchia, che nella produzione poetica di Silvano De Marchi si sente la preparazione filosofica, però ecco, al tempo stesso, e Crecchia lo dice in altra maniera, in De Marchi non la dicotomia, ma ecco, la chiarezza, diciamo, sulla diversità di genere è chiara. Cioè, un conto è la poesia e un altro è la filosofia, non nel senso, ben inteso, adesso c'è anche tutta la polemica, Galimberti, eccetera, no? Che probabilmente avrete seguito, per cui giustamente si ribadisce che anche la filosofia deve interrogare più che dare tout court delle risposte. Però, ecco, a fortiori, diciamo, è la poesia che risposte non può darle, e quindi deve porre delle questioni e a partire da diciamo una Weltanschauung, da una concezione del mondo, ma anche e soprattutto da una concezione della vita, che è quella soprattutto platonica, neoplatonica, diciamo di un sano idealismo, se mi è consentito, non nel senso crociano, gentiliano, ma in un senso più moderno e anche più efficace, in De Marchi c'è, accanto alla ricerca teosofica, cioè a una ricerca sull'essenza del divino, se è concesso esprimersi così, che si muove anche al di fuori e al di là di steccati e di categorie precise. Dal punto di vista poetico, strettamente poetico, ma come ripeto, non c'è una dicotomia, c'è appunto una diversità rispetto alla ricerca intellettuale, alla ricerca culturale, che poi è sempre relativa, no? Voi sapete che anche tutto il pensiero del Novecento e di questo inizio, diciamo, di millennio e di secolo lavora sulla poesia a partire dai poeti. Quindi anche qui bisogna un attimo stare attenti. Un qualcosa di molto efficace dal punto di vista poetico è la ricerca sempre più approfondita di quello che con espressione callimachea, non spaventatevi, è il mega biblion, mega cacon, cioè più il verso è lungo, più c'è una diffusione, diciamo, di tipo da poema epico o altro, peggio è, quindi una contrazione del verso, una essenzializzazione del verso, oserei dire una scarnificazione del verso. Attenzione, questo in Italia, nella tradizione italiana, deriva dall'ermetismo, ma Silvano De Marchi, non da solo, ma in particolare direi Silvano De Marchi, si rifà alle grandi tradizioni poetiche europee, quindi non è solo l'ermetismo qui in campo, non è solo Ungaretti in particolare. Ecco, dal punto di vista metrico, poi vedrò di fare qualche esempio in dettaglio, c'è una ricerca, oserei dire, della metrica di tipo quantitativo, cioè anche dove c'è spessissimo il verso libero, anche perché la rima finale, diciamo, è sempre un pochino sia baciata sia alternata, salvo in scarsi casi, vedo che torna molto massicciamente nella poesia di Altale, per esempio, nell'ultimo volume di Francescotti, quello in dialetto trentino, si ritorna alla rima finale, ma con parole tronche, per questo è anche in qualche modo inevitabile. Dal punto di vista poetico, ma diciamo del sottofondo psicologico, esistenziale dell'autore, perché tutti noi chiaramente non siamo, grazie al cielo, né macchine né meccanismi in qualche modo pilotati o anche auto pilotantisi, diciamo, De Marchi fa appunto una ricerca, come dicevo, che è una ricerca esistenziale, una ricerca anche su una fase che, diciamo, non è più prettamente giovanile della propria vita, ma ecco, io direi che accanto a qualche elemento malinconico e disforico, cioè di sostanziale tristitia, ecco, diciamo, della tristezza, la melanconia, malinconia, come volete, ecco, tutto questo poi invece è in qualche modo superato da quello che dicevo, cioè da una ricerca profonda del senso della vita, anche quando c'è, e c'è spesso, un quesivi, o meglio quaesivi, et non in vini, cioè ho cercato, non ho trovato, però poi al tempo stesso, ecco, la soluzione, che evidentemente non c'è, non può esserci, non c'è, perché non può esserci e non deve esserci in poesia, però viene lasciata, viene, diciamo, per così dire, affidata al lettore, no? Se c'è qualcosa che è sicuramente da recuperare dall'amico Humbert, intendo Umberto Eco, è il lector in favola, no? Cioè quando noi leggiamo, dovremmo essere capaci, e nel caso migliore, nei casi migliori lo siamo, di apportare qualcosa al testo. Qualche volta, e fa piacere, si sente dire, ma cioè, hai scovato qualcosa che io non avrei visto. Questo è chiaro, perché quando si scrive, poi si pensa evidentemente a molte cose, ma si è concentrati in particolare sulla produzione che viene creandosi o che si crea, anche, dico, non nel senso appunto di un qualcosa che va avanti da sé. La divisione in sezioni non è peregrina e non è casuale. Figure e paesaggi, si chiama la prima sezione, con questa bella citazione che invito a leggere di Günther Eich. Purtroppo ecco, c'è un refuso della tipografia, streicht einem Geheimnis näher, invece qui c'è einen, terribile, no? da segnacci rossi, da ex docente di tedesco seconda lingua, dove non so fargli che cosa, ma insomma, comunque c'è, questo è un errore che non è imputabile naturalmente a Silvano, le tipografie vanno per conto loro. Figure e paesaggi, perché? Perché i paesaggi formano anche delle figure, e anche le figure, anche dove ci sia la figura umana, rimanda sempre a un contesto, che è anche quello paesaggistico, e quindi diciamo è sempre anche un paesaggio. Cito solo così, in breve, i bambini hanno occhi fermi, i bambini, nei loro sguardi riluce lo stupito candore dell'alba. Non è casuale questo incipit con lo stupore, non a caso stupore si chiamava Silvano nella tua precedente raccolta, nel 2003 mi pare, o inizio degli anni 2000, ecco, dove appunto questo tema, lo stupor mundi, ma anche lo stupor hominis, direi, lo stupore per il mondo e per l'uomo, è evidentemente l'inizio, appunto, l'incipit della conoscenza e l'incipit della poesia. Il fanciullino pascoliano, a parte che non è solo in Pascoli la caratteristica, perché loro sanno che Arthur Rimbaud, grandissimo poeta simbolista francese, scrisse solo fino all'età di 18 anni, anche perché dopo la vita lo portò, non si sa bene tuttora, a fare che cosa. Qualcuno dice, speriamo di no, il trafficante di armi, ma insomma, nel mondo arabo, allora, non molto dopo, c'è Lawrence d'Arabia, no? Lo sanno, il grande inglese, filo arabo, e con tutte le, non David Herbert Lawrence, ma Thomas, no? L'avventuriero militare, scrittore, no? E anche, vabbè. E comunque erano, diciamo, situazioni difficili. Poi, per esempio, ecco, a proposito delle allitterazioni, dei fonosimbolismi, ma non li cito solo per formalismo, diciamo, in un'ottica formalistica, di analisi formalistica, Sere a Dubrovnik, le meste melodie slave e l'improvviso irrompere delle danze zigane allietavano. Ecco, come vedono, per esempio, evidentemente le allitterazioni in M, e anche poi diciamo, alcune anafore delle danze dell'antica Ragusa, eccetera. Ecco, tutto questo non è evidentemente casuale, dà un ritmo, ma dà anche un ductus forte alla poesia, che è sempre fortissimo. Oppure l'iterazione, caducità, il tuo nome è rondine che vola via, il tuo nome, come quello dei poeti, è caducità. Il tuo nome, no? Ripetizione. Oppure una poesia che poi sentiranno, proposta dagli attori, dai nostri amici attori bravissimi, purpure uccello, duro è il destino dell'uomo e più ancora nulla sapere dell'oltre. Scusate, se l'ho scadenzato in modo un po' eccessivo, un po' iperbolico, ma era appunto per dire anche di questa ricerca della metrica quantitativa. Perché? Perché è un verso solenne, perché giustamente ci dice del grande mistero, diciamo, no? Ecco, anche qui vabbè, gli elementi che rilevavo prima, no? Duro destino, eccetera. Oppure l'osservazione del lago, no? Lo specchio del lago è limpido e terso questa mattina, però ecco, poi quale pace giunge nell'anima che senza cercare ha trovato e alla mente che più non indaga il segreto perché delle cose. Ecco, quindi questa forza, questa pregnanza del verso che è sempre carica non solo di significati ma di produzione di senso. Notte nel bosco, anche qui gli ultimi versi, mai così viva e misteriosa a quest'ora è la vita nel bosco. Non a caso la Ingens, Sylvan, insomma, ecco, diciamo, percorre tutto l'immaginario classico, neoclassico, rinascimentale, e poi, diciamo, sfocia in una ricerca che oggi arriva anche alla letteratura o al cinema o anche alla TV più trash, no? Più dark, ma anche più trash. Però attenzione, se è in questo senso, è la foresta di simboli di baudelariana memoria, ma è l'intrico della selva che naturalmente ci rimanda anche appunto alla notte e alla tradizione della notte mistica, no? Declinava l'estate, s'accese un sopore di assidua fiamma. Poi ecco anche delle caratterizzazioni di personaggi, volevo insistere un po' su Otium, o meglio Otium, come bisognerebbe dire, Beatus ille qui procul negotis sostenere Orazio, cioè beato colui che è lontano, che inteso può stare lontano dagli affari, dai negozi, cioè dai vili affari, no? Dal vile denaro, da quello che diciamo è anche l'attività più produttiva, ma anche più legata al vile metallo. Poi sia e pare che questa sia la torva legge del tempo, idace, cioè che mangia via, no? Alla lettera, da edere, come edere anche, no? Loro sanno in spagnolo è rimasto comer, vuol dire mangiare, no? Inesorabile. Oppure la memoria di Efeso, dove appunto il tempio sacro d'Artemide, la biblioteca di Celso, lavora l'anfiteatro, qui vorrei sottolineare un altro aspetto. Chi, come De Marchi, anche chi vi parla, viene da studi classici, non può dimenticare, oltre diciamo, alla lezione rivoluzionaria, se vogliono, o comunque innovatrice del cristianesimo, anche la lezione della cultura classica, quindi vedere una sostanziale continuità anche dove vi sia transfunzionalizzazione, dove vi sia, diciamo, una traslitterazione, no? Volendo. Ecco, e sono tutti dei ritratti e appunto delle caratterizzazioni di estrema efficacia. L'altra sezione, le ragioni del cuore, l'amato, ecco qui si rifà alla frase pascaliana, per cui il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha. È un gioco di parole perché raison in francese vuol dire anche motivazione, non solo ragione, no? Quindi, vocatus atque, non vocatus, Deus averit. Cioè, Dio sarà presente sia che venga chiamato, sia che non venga chiamato. Quindi anche il Deus absconditus, il Dio segreto, viene richiamato, che è della tradizione mistica, diciamo, che ha grande importanza in questa tradizione. Uno strano soppore mi prese, viaggiai in terre sconosciute, lontane, per incontrarlo ancora. Ad ogni porta mi dicevano che era passato di là, volevo rivedere il suo volto, porre fine a questo perenne viaggiare. Vedete anche porre, perenne, anche questi fonosimbolismi, la P, anche la notativa. Bene, ecco, ritrovare l'amato con la maiuscola, cioè la dimensione, diciamo, dell'assoluto, no? Se mi cercate mi troverete nei vostri cuori, citazione evangelica come sapete, ma le tue parole sono oscure, difficili da intendere, eppure sento che qualcosa al di là della ragione mi avvince a te, ricchezza senza fine, inebriante dolcezza e estasi e canto. Anche qui e è nel senso et latino, cioè sia, no? La correlazione, l'endiadi, quindi, no? Ecco, nella sorta meditazione dei boschi cantano gli uccelli la sua gloria. Gli iniziati, ecco, anche qui proprio uno dei temi fondamentali, quindi la ricerca mistica anche in chiave esoterica, no? E poi questa, che è una vera rampogna, no? E voi sorelle che vi siete ritirate in preghiera fuggendo dal mondo, perché non correte a salvare i bambini dagli stenti, dalla fame, dall'impietosa falcidia dell'AIDS? O dell'AIDS? Le nostre preghiere non giovano alla loro terrena salvezza e non dite a discolpa cose indimostrabili. Quindi, naturalmente ecco, c'è una, a mio parere, giusta rampogna contro chi predica in un certo modo e poi agisce diversamente, no? Popolarmente si dice razzola diversamente, no? Razzola, ma insomma, popolarmente. Poi vicende, anche qui vicende da intendere in senso forte, ecco qui. Ich stehe zwischen zwei Welten, sto, diciamo, sono collocato tra due mondi, che è di Thomas Mann, dove intendeva due epoche, però è inteso anche in altro senso, quindi due dimensioni, quella terrena e quella sovra o extra, diciamo, terrena. E qui per esempio c'è un'altra rampogna, loro si chiama, parlavano della resistenza e cantavano canzoni obsolete tra uno sventolio di bandiere, loro che fanno i picchetti davanti alle fabbriche, occupano le università, impediscono di lavorare, studiare a chi lo desidera e si proclamano fautori di libertà. Uno, beh, apparentemente direbbe, ma questo è un testo discutibile, e lo è, no? Nel senso latino, però, da discutere, capite? Però se pensate al fatto che i grandi, tra virgolette, fattori o promotori del 68 oggi sono in giro o a vendere libri come Mario Capanna o Daniel Combandi, che è passato da quando è passato dalla Francia in Germania, poi ha fatto una trasmissione, se qualcuno l'ha vista, tre lustri fa, sul canale svizzero tedesco, dove presentava libri, era molto così affabile e anche fin troppo colloquiale, è passato quasi dall'altra parte, no? Quando si individuano le correnti nei verdi europei, e notare che con Bondi o con Bendit, che dir si voglia, comunque è prima ebreo e poi franco-tedesco, però ha saputo giostrarsi molto bene e appunto è passato ai cosiddetti realos, no? Quelli che fanno la realpolitik, quelli che sono più accomodanti, e quindi anche questa rampogna va benissimo per quanto mi riguarda. Poi naturalmente lascio ad libitum vestrum, no? Al vostro gusto, alle vostre scelte, alle vostre interpretazioni. C'è poi questo ragazzo di vita, si chiedevano se era greco o armeno quel ragazzo di vita da poco arrivato che frequentava le vie malfamate di Istanbul, sottraendo i clienti a prostitute e travestiti. Vendeva la sua giovinezza per avventura o per scacciare la noia, anteponendo all'amore il piacere. Morì all'età di 23 anni, fu sepolto nel cimitero cristiano, e tra gli amici c'è ancora chi gli porta dei fiori. Anche qui gli ultimi versi, in particolare questa essenzializzazione, questa metrica di tipo latino, quasi esametro, comunque quantitativo. Non a caso il titolo pasoliniano, no? Ragazzo di vita. Poi Tristia, cioè le cose tristi, e qui evidentemente poi ci sono anche richiami classici, c'è Filemone e Bauci, ci sono altri elementi estremamente, c'è questo Spes, che è Paese dei Cerri, che è scritto nel 2006, quindi a ridosso dell'ultima guerra, no? Libanese. Voi sapete che due anni fa è riscoppiato un conflitto che tuttora, anche se abbastanza sopito, continua in Libano. Ho anche informazioni a riguardo che un po' nei giornali non si trovano. Ecco, poi Risvegli, anche qui tutto questo, questa problematica che si lega poi a un grande pensatore e poeta, anche qui l'invidia è totale, cioè Fernando Pessoa. Mi diceva un portoghese che bisogna chiudere la O, Pessoa. Quindi qui poi vedrete, leggerete e vi verrà letto anche, no? Cosa, letto, diciamo, interpretato, perché i nostri attori qui sono. Ecco, io direi che tutta questa ricerca, questa quête, questa appunto ricerca, ma nel senso iniziatico e mistico, la quête è quella provenzale, no? Quella dei troubadours, dei trouveurs, ma anche diciamo dei testi esoterici del Medioevo, tra l'altro anche della tradizione catara, che poi purtroppo è stata in gran parte cassata e distrutta, no? Dalla cosiddetta crociata interna. Ecco, direi qui abbiamo molti elementi per pensare, poi vedranno, sentiranno e soprattutto, questo è un invito, leggeranno. L'incanto dell'innocenza, la gioia, lo sgomento e il pianto per il dolore che attraversa il mondo sono le note di questo trepido canto. I bambini hanno occhi fermi, i bambini, quando ti guardano. Non temono il confronto, non sfuggono, ma candidamente interrogano. Hanno occhi fermi, i bambini. Nei loro sguardi riduce lo stupito candore dell'alba. Alle soglie dell'autunno se ne andò come un uccello che frulla e poi sparisce. Gli lasciò un figlioletto nella tenera età in cui cerca la madre. Quando piange, lui lo prende tra le braccia, lo culla, lo accarezza cercando di consolarlo, come può fare un uomo. Al tavolino esterno di un bar, davanti a una bevanda ghiacciata, un anziano osserva la gioventù che passa e pensa che anche lui un tempo era giovane e bello. Poi lo sguardo si posa sulle ragazze in fiore e il loro molle incedere. Così, in quel sogno, dimentica l'inerte stato cui l'ha condotto l'inarrestabile avanzare degli anni. Carcerato, secco il colpo del cavistello, pesante il passo delle guardie, poi ti tolsero le catene e ci trovammo di fronte, io, il gatto, tu, il topo. Ma nella nuda cella sono lunghe le ore, e ridotto lo spazio di cielo dove passano sole, nuvole, pioggia e poi la notte che devasta il cuore. Ti prelevarono alle 4 del mattino come una bestia che si porta al macello e io a seguirti con occhi attoniti come si segue una bara al funerale. Spes, paese dei cedri, paradiso di invaghiti turisti, ora cimitero di devastanti macerie. Verrà il giorno che cancellerà gli odi e cesserà il frastuono delle armi, lo strazio degli oppressi. Tacerà il demone della vendetta e la fitta coltre di tenebra diraderà. Non è vinto chi, come brace sotto la cenere, coltiva la speranza. Quando avrà fine questa immane atrocità? Dopo i lager dell'Olocausto, i gulag dei lavori forzati, kamikaze sospinti dall'odio, adolescenti addestrati alla guerra, smodate ricchezze e carestie, tutto riflesso nelle nostre vite acquiescenti. Forse non a Dio, ma all'uomo dovremmo chiederlo. Icona. Ogni tumulto del cuore si placa alla dolcezza del tuo sguardo. Tu riporti sulle labbra il sorriso e incanti col tuo muto parlare. Abisso di infinito mistero, chi sei tu che porti la pace nei cuori? Noi iniziati, noi iniziati, conosciamo i piccoli e grandi misteri che svelano il segreto del cosmo e dell'anima. Scintilla divina che compie il percorso aritroso, ascendente, dall'opaca materia alla luce irradiante dell'uno. Solo a pochi, ai puri di cuore e di mente, è dato seguire il luminoso sentiero. Non protesi al potere, non legati alle fallaci attrazioni del mondo. Il Sufi, vita contemplativa. Saturo di solitudine, il Sufi si incamminò per entrare in città. Ma alle porte una guardia gli disse: «Bada, che qui sei nessuno. Sul monte vengono a trovarti e ti adorano. Lascerai un ricordo in chi ti succede. Qui, per le vie rumorose, scompari entro una folla anonima. L'atto eroico non è entrare nel mondo, ma rinunciarvi, anche se ciò non reca vantaggio ai tuoi simili». Non si sa se il monaco tornò sui suoi passi. Viatico. «Prepara il vestito scuro, quello migliore», disse. «Dobbiamo fare un grande viaggio. Non ti salverà l'amuleto che porti al collo. Di là qualcuno ci attende. Nella opalescente vastità di nuovi cieli ti porterò, dove festanti ti accolgono i tuoi cari, dove la quiete più non turba questa luce troppo viva». A Parigi. Parigi sontuosa, la sua folla variopinta, il pigro balucinare della Senna. Mentre nel corso affollato un dritto filar di lampioni metteva occhiate di luce, lo sguardo mi scorse da un lato. Quale gioia provavo a vederti, mio mite Michael. Trovarsi lontani da casa, parlarsi sommesso in un caffè appartato, più che compatrioti, in quell'ora sentirsi fratelli. Ragazzo di vita. Si chiedevano se era greco o armeno quel ragazzo di vita da poco arrivato, che frequentava le vie malfamate di Istanbul, sottraendo i clienti a prostitute e travestiti. Vendeva la sua giovinezza per avventura o per scacciare la noia, anteponendo all'amore il piacere. Morì all'età di 23 anni. Fu sepolto nel cimitero cristiano e tra gli amici c'è ancora chi gli porta dei fiori. Sede a Dubrovnik. Le meste melodie slave e l'improvviso irrompere delle danze tigane allietavano le mie sere nelle oscure taverne dell'antica Ragusa, tutta vicoli stretti ed erti. Inaccentava la luna i merli delle possenti mura e piombava il silenzio sulla vecchia, obsoleta città. Di lontano il rombo cupo del mare. All'ombra delle nuvole. All'ombra delle nuvole è ridente il paesaggio al di là del fiume, dove volteggiano gli uccelli, e il vento reca alati profumi di variopinti fiori, su cui ronzano gli insetti. Si ode appena l'eco di una gazzarra di passeri tra i platani. Qui tutto è muto. Pungente l'aria foriera d'estivo temporale, basso il volo delle rondini. Tremano le foglie di lavanda all'incombente minaccia. Purpureo uccello volava sulla cresta delle onde e quando sulle nude scogliere posava, così levava il suo canto. Lo intese nel silenzio il mio cuore. Chi si è inoltrato nell'inesplicabile notte ai suoi cari, agli amici di un tempo, più non tornerà. Duro è il destino dell'uomo e più ancora nulla sapere dell'oltre. Dopo il temporale, come pazzamente trillano gli uccelli dopo il temporale e come impazzano intrecciando obliqui voli nell'aria ancora umida di pioggia. Sono lucidi, diamanti, le gocce che la guazza ha lasciato sulle foglie. Dalle fronde grondanti, dai campi fumanti, è tutto un canto di gioia. Escono dagli anfratti al sole le pavide lucertole. Lago. Lo specchio del lago è limpido e terso questa mattina. Tremoli pioppi si specchiano e salici dalle tenere chiome. Lenti navigano candidi cigni e alzavole verdi dorate. Quale pace giunge nell'anima che senza cercare ha trovato, e alla mente che più non indaga il segreto perché delle cose. Incombente minaccia. Giunti a un cupo passo del monte, imboccammo un impervio sentiero entro una gola profonda tra rocce scoscese e dirupi, mentre già calava la sera. Il silenzio del bosco, non un grido d'uccello nell'aria, le nuvole scure addensate nello spazio ridotto del cielo erano un'incombente minaccia. Un brivido allora ci corse per tutte le membra. Sarebbe seguito lo schianto, il boato dei tuoni, lo spezzarsi dei lampi sui pini, lo scroscio. Notte nel bosco. In questa calda notte d'estate, silenzioso è il bosco. La luna velata occhieggia tra i rami. A terra i ranuncoli brillano di pallida luce, indugiano al sonno gli animali. Dall'alto di un ramo veglia con occhi gialli il Barbagianni e scruta la preda, un topo, un criceto che esce dalla tana. Si sono destati dal sonno diurno i pipistrelli e sfrecciano col loro infallibile radar sfiorandoci. Mai così viva e misteriosa a quest'ora è la vita nel bosco. Efeso. Tra le alte colonne salimmo la via lastricata che Antonio percorse trionfante sul coppio. Quando in cima ci apparve il tempio sacro d'Artemide, la biblioteca di Celso, l'agorà, l'anfiteatro di rossa arenaria dove l'eco propaga il minimo suono. Efeso, dalle imponenti rovine, e noi, trastornati dalle antiche memorie, sotto un sole accecante. A Santorini. E giungemmo alla grande caldera, tra le alte rupi scoscese di Santorini. Qui è tetra desolazione. Gialle cupe le acque e acre odore di zolfo nell'aria. In fondo vi dorme un vulcano che in tempi remoti di lava e lapilli sommerse isole e civiltà, oggi vano ricordo. Ma in alto ridono le bianche case e i clivi festanti di uve sotto l'azzurro intenso del cielo. È rinata la vita. Gli usignuoli di Samotracia s'inebriano nel canto verso sera e pare danzino nell'aria lieve al ritmo del sirtaki, mentre, palla infuocata, il sole si tuffa nell'equorea distesa di smeraldo. Voci dall'oceano giocavano le mie dita sull'ocarina, cercando di modulare suoni che s'accordassero al canto uguale delle onde, e sognavo di delfini che emergevano il suono e scomparivano. Ma quando impetuoso il vento prese a gonfiare le onde, più non riuscivo ad accompagnare il frastuono potente, pauroso, e stordito barcollavo sulla riva all'ascolto di quelle voci profonde. Voci dall'oceano, chi può dirne il segreto, l'origine arcana? Leggendo Pessoa. Avrei voluto abitare in una casa sulle rive del Tago, che lento fluisce all'oceano, e di là guardare le navi che arrivano col biondo mattino, sentire il richiamo del mozzo che getta la fune all'attracco e armeggiare di ponti e sirene che svegliano la città addormentata. O nel silenzioso tramonto guardare le navi che salpano per lidi lontani, tristezza di chi rimane, gioia e nostalgia di chi s'allontana. Sensazioni che in un tempo remoto ho vissuto, ma che ai tuoi versi, Pessoa, con un misto di stupore e di angoscia, nuovamente mi assalgono. Alba a Tenerife. Lunga la notte, e l'alba argentea alla fine irrompe. Sulle deserte alture e i grattacieli di Tenerife, la prima luce via via si estende fino alla spiaggia di lava e ai scintillanti flutti. Dai casolari sparsi in alto, il canto del gallo annuncia che il giorno ha vinto la notte. Mai l'anima si sente tanto ispirata. Al lago Balaton, con la luna appesa alla vete più alto, le acque scintillanti in una calda notte d'estate, parlai con un'amica dagli occhi di smeraldo e i lunghi capelli di miele. E quando volevo svelarle un segreto moto del cuore, mancò la parola. Tutto rimase nell'aria, sospeso. Come canto. Un'angoscia stringe la gola, ma è gioia dell'anima quando scorca poesia. Arcane voci porta il vento. Dovrei librarmi su forti ali di cinerio airone per ridarle meliche parole. E tu, amico, dentro di te ascolta, non cosa, ma come canto. Chiederei in primis anche un applauso per, adesso dico in ordine alfabetico, però i nomi, Alfredo Lettucci, grazie dell'Aquila, e Patrizio Zingaro. Ecco, guardalo come l'attore, l'interprete sa dare qualcosa alla poesia, quel, se volete, senso in più, che talora chi scrive la poesia è ritroso a dare. Io personalmente, quando mi chiedono di leggere cose mie o anche da altri, ma in particolare mie, dico, per carità, insomma, vedo che invece poi, per esempio, mi è successo due giorni fa, ero tornato per fare questa cosa con l'associazione antica ormai Musica, Teatro, Tradizione Popolare, c'era un poeta napoletano, fra l'altro difficilissimo, bisogna fare appello a tutte le proprie conoscenze di filologia romanza per capirci qualcosa, farsi aiutare da qualche amico napoletano che c'è per fortuna. E, però ecco, questo poeta tranquillamente, addirittura i suoi versi erano stati messi in musica, addirittura si è messo a cantare anche bene, insomma, anche musicalmente intonato, quindi qui è un problema sia caratteriale, sia anche culturale, sia indotto, diciamo, da diverse esperienze. Io ritengo però che un'esperienza come quella che l'ASA da anni porta avanti, con appunto le poesie di Silvano De Marchi, con racconti, poesie di altri, noi che diciamo facciamo parte dell'associazione, con la preziosissima fonè degli attori, ecco, veramente dia un qualcosa che per ritrosia, per timidezza, adesso parlo per me, non universalizzo, non si è in grado di fare. Un'altra cosa, e qui chiudo completamente, e qui faccio un po' di più il mio mestiere, se guardano, leggendo, rileggendo, perché in parte l'hanno letto ascoltando anche, no? E quindi diciamo una parte della lettura è già stata attivata, ma naturalmente deve essere ripresa e riproposta. Ecco, facciano attenzione ai cromatismi, che non sono moltissimi, anche nelle poesie di Silvano, vale anche per le mie pochezze, diciamo i colori non sono sgargianti, non sono, però quando ci sono sempre vettori. tori profondi di significati. Facciano attenzione perché ci sono colori, ci sono forme, ci sono sfumature. Ecco, questo anche in un ambito di sinestesia, diciamo, è da tenere molto presente, un ambito di sinestesia che non solo appunto a livello di simboli, che comunque nella poesia sono sempre presenti, come nella pittura, naturalmente con tecniche diverse, inutile dirlo, nella musica, vedo qui il nostro collega musicologo dottor Lippis, e altri sicuramente musicisti presenti in sala, ma ecco, tutto questo è un qualcosa da riscoprire. E qui però vorrei l'intervento di Silvano. Grazie. Ringrazio anzitutto l'amico e collega Eugen Galasso per questa acuta, approfondita analisi che ha fatto della mia poesia, tirando fuori un'infinità di cose a cui consapevolmente non le avevo sempre espresse. E poi il ringraziamento vivissimo agli attori, i quali, come ebbe dire Eugen, non solo leggono ma interpretano, rendendo particolarmente efficace l'espressione poetica. Vengono da una grande scuola, perché si sa che l'amico Retucci era allievo dell'attrice e professoressa Maria Pia Socin, e che fece parte del teatro locale, che andava spesso alle gare internazionali a Pesaro. Da questa grande scuola deriva appunto una dizione così rara della poesia, perché bisogna pensare che gli attori di prosa in genere non sanno leggere la poesia, qui invece non è così, è tutt'altra cosa. E grazie al gentile pubblico che ha avuto la pazienza di essere presente per tutto questo tempo. Io dicevo l'ultima volta, come noi della nostra generazione, vedo che ha studiato nel dopoguerra, e siamo cresciuti nell'esperienza ermetica, dove con Ungaretti soprattutto era stato scoperto il valore sacrale della parola. Quando trovo una parola in questo silenzio, scavata è nella mia vita come un abisso, ebbe a dire Ungaretti. Ma non solo l'esperienza estetica e l'esperienza, direi, poetica dell'ermetismo e del simbolismo mi hanno personalmente influito, ma poi la scoperta dei lirici tedeschi che io ho tradotto, e quella fu fondamentale, da Rilke a Ritroso, al grande Mörike, a Heine, Hölderlin, ai grandi lirici, perché una differenza fondamentale fra la poesia tedesca e quella italiana, a me sembra, è che la poesia italiana è pittorica, tende al quadro, dalle pennellate sicure e chiare. La poesia tedesca invece è più musicale, musicale anche per la lingua, per la prevalenza delle consonanti sulle vocali, a differenza della lingua italiana, per queste sibilanti e palatali, per cui da letta in tedesco dà una musica specialissima che solo nell'originale si può intendere e apprezzare. Grazie quindi a tutti. E qui ci sono dei miei libri, quelli delle poesie che hanno letto stasera, altri, e poi altri testi, vero, di carattere, di storia delle religioni, a cui in questi ultimi anni mi ero dedicato, se possono interessare. Grazie di nuovo. Posso chiedere gentilmente? Ah, sì. Grazie, Gianni. Il nome è Patrizio. Caro Patrizio.